Si è scoperto che l'espansione accelera, per esempio, e non sappiamo... È molto aspra sui rapporti tra la scienza e la società. Da poco tempo fa le applicazioni della scienza... Il gas è lo stato più semplice in cui si trova la materia. La libertà di poterlo ridistribuire e modificare. La cultura scientifica, voglio dire, è qualcosa di immenso. Caccia al fotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fujiko. Sabato 4 ottobre 2008 e benvenuti ad un'altra puntata di Caccia al fotone. Prima puntata della nuova stagione. E sono le ore 10:30. Cominciamo con i soliti contatti 333-180-9494 per inviare un sms e cacciafotone@radiocittafujiko.it per inviare le vostre mail. E dopo un po' di mesi di pausa si comincia parlando di scienza e politica. E ne parleremo con Walter Tocci. Walter Tocci, parlamentare della 14ª legislatura e membro del Comitato della Camera dei Deputati per la valutazione dell'attività scientifica e dirige il Centro per la Riforma dello Stato. La mia domanda iniziale è: perché lei si interessa di politica e della scienza? Quali legami ci sono fra scienza e politica? Ma la politica della scienza è un'espressione ambigua. Possiamo mettere l'accento sulla politica oppure sulla scienza. In un caso diventa l'amministrazione della ricerca scientifica, l'organizzazione degli enti di ricerca, dell'università, il problema dei finanziamenti, dei giovani ricercatori. Nell'altro caso diventa la scienza che sconvolge l'organizzazione sociale, culturale dei tempi nostri, e la politica che si confronta con questi sconvolgimenti, che cerca di misurarsi con essi. E mi interessa questa ambiguità, questo doppio significato e questi intrecci che ne discendono. Quindi fondamentalmente c'è un qualche collegamento fra scienza e politica, non è vero che non c'è? Beh, penso che sia una delle dimensioni più importanti oggi dell'azione politica e allo stesso tempo uno dei terreni nei quali viene più evidente la debolezza, l'inadeguatezza della politica, soprattutto in Italia. E alla fine della trasmissione avremo un'intervista con Claudio Argentini, colui che ha inserito un'inserzione su eBay in vendita i precari. Adesso ci andiamo ad ascoltare un po' di musica, che da quest'anno sarà tutta Creative Commons. Questi sono gli Antares con Stay Away. Ignition. Bentornati in studio, questa è sempre Caccia al Fotone e quest'oggi stiamo provando a parlare di politica della scienza in compagnia di Walter Tocci. Vi segnalo un libro appena uscito che si intitola proprio Politica della scienza dalle edizioni EDS. Scritto ovviamente da Walter Tocci. Walter, nel libro fai una distinzione fra scienza e democrazia e individui alcuni fattori comuni. Come mai dalla società sta arrivando una richiesta di limiti alla scienza e alla democrazia proprio nel momento in cui scienza e democrazia stanno avanzando nel loro massimo splendore? Sì, questo è un paradosso, no? In fondo la nostra epoca segna il successo sia della scienza sia della democrazia. E però nel punto di più forte risultato vengono sottoposte entrambe a un tentativo di controllo dall'esterno sostanzialmente, quindi la scienza c'è la tendenza a sottoporla alla tavola dei valori e la democrazia spesso si dice è una procedura, è un orcio vuoto, va riempito con i contenuti identitari di un popolo, di una nazione. Se potessi identificare dei fattori comuni fra scienza e democrazia, quali identificheresti? Beh, proprio il relativismo, cioè proprio il relativismo come metodo, che è esattamente ciò che questi tentativi mettono sotto accusa. Io credo che dalla ricerca scientifica sia sempre venuta questa lezione appunto di relativismo inteso come costante ricerca dell'innovazione, del confronto di opinioni, del confronto di idee, che è anche una risorsa fondamentale della democrazia. E che cosa ti aspetteresti da una scienza ideale, tra virgolette? Una capacità di criticare se stessa. Il problema è che la scienza, pensiamo al Novecento, c'è stata la scienza della fisica, della grande fisica dell'atomo, del nucleo, che poi ha portato sia alla bomba atomica. Probabilmente l'errore che ha la scienza non viene mai perdonato. Certo, però dall'interno della comunità scientifica ci fu anche il grande movimento degli scienziati per la pace. Ricordiamo l'appello di Einstein e Russell, che poi sviluppò tutto un movimento appunto pacifista all'interno della comunità scientifica. Quindi la scienza, che pur aveva prodotto i paradigmi scientifici che poi portarono a quella invenzione, però procurò anche gli anticorpi culturali ideali per la lotta contro la guerra. Io credo che il secolo che è appena cominciato sarà, non lo credo soltanto io, insomma è noto il secolo della biologia, e che procura problemi altrettanto fondamentali, anzi direi di più, perché riguarda noi stessi, riguarda che cos'è la vita, che cos'è la natura umana. Walter, su questo mi collego per citarti una frase che mi è piaciuta molto del tuo libro, in cui dici che la scienza è andata troppo avanti senza che la società sia riuscita a metabolizzare i suoi risultati. Esattamente cosa vuoi dire? Parli di scienza come tecnologia o scienza come etica e bioetica? Perché le distinzioni sono quasi sottili. Beh, io credo che noi siamo ormai da una ventina d'anni dentro grandi rivoluzioni sia scientifiche che tecnologiche. La scienza della vita, abbiamo detto prima, mette in discussione anche il concetto stesso di vita come lo abbiamo conosciuto sin qui. Le nanotecnologie, come dire, rappresentano quello che è sempre stato il sogno prometeico, cioè creare la sostanza, creare la materia. E se leggiamo gli articoli di giornali, vediamo tutti i giorni articoli sull'etica, sulla bioetica, sul fatto che si creano dei mostri in laboratorio, anche se insomma gli scienziati non creano mostri in laboratorio. Poi c'è la scienza della mente, che anche lì apre frontiere incredibili. Beh, poi esperienza nostra di tutti i giorni, la informatica, quindi l'internet, che quanto questo ha sconvolto e anche però arricchito la nostra vita quotidiana, diciamo. Ecco, la scienza e quindi la tecnologia sono oggi impegnate in paradigmi, in risultati che sono profondamente in discontinuità con il passato. Quindi la scienza è andata molto avanti. Io credo che non siamo riusciti a starle appresso con la nostra, con il pensiero, con la politica, con la cultura. C'è un affanno, questo succede spesso nella storia, no? Ci sono dei momenti in cui si esprime una forte capacità di trasformazione e invece rimane un po' in affanno la capacità di regolare i risultati di questa trasformazione, cioè uno squilibrio. Per usare un'espressione molto felice, secondo me, Giorgio Ruffolo, di un libretto di 20 anni fa, uno squilibrio tra la potenza e il potere, cioè la potenza di trasformare le cose e il potere di regolare i processi. Poi la storia ci ha sempre insegnato che a un certo punto questo potere di regolazione, rimasto un po' indietro, poi riesce a recuperare il cammino e quindi a mettersi all'altezza. Ma io credo che oggi siamo nel vivo di questo squilibrio, appunto, tra una potenza che è andata più avanti del nostro capacità di regolarlo. Non, quando dico regolarlo, non dico in senso poi prettamente normativo, come si va quasi sempre a dire, quindi con legge e così via, ma innanzitutto di regolarlo con la nostra capacità di pensare questi fenomeni. Ecco, dicevi tu prima, spesso si leggono, si sentono tante stupidaggini su queste cose qui, nuovi atteggiamenti antiscientifici che sono, al di là del merito, quasi sempre sciocchezze, ma denotano proprio questo affanno, questa difficoltà, che invece è un problema serio, di stare appresso, di stare dietro, di stare all'altezza di queste trasformazioni scientifiche dei tempi nostri. Noi ci lasciamo con un'altra canzone degli Antares e questa si chiama Different Way. You. ritorniamo subito in studio. Questa è Caccia al Fotone. Vi risegnalo l'indirizzo per mandare i vostri sms, che è 333 180 94 94, e la nostra email, che è cacciafotone@radiocittavujico.it. Come di consueto, però, spazio al cinema. L'hai trovata tu questa soluzione? Il passaggio difficile è all'inizio, il resto sono solo numerelli. Numerelli? Quanto tempo ci hai messo per... Certo, un po' di tempo ci vuole, non è facilissimo. Ci ho passato sopra tutta la notte. Noi ci lavoriamo da una settimana. In tre. Ecco fatto. Così farei bella figura col tuo professore. Sei anche tu una cavia di fermo? Sì. Sì, una cavia. Di che cosa ti occupi? Diciamo di ingegneria, ma non mi interessa molto. Peccato, perché sembri uno sveglio. Grazie. Hai mai pensato di studiare fisica? Quella moderna? In realtà mi piace la matematica. Ma mi dà fastidio che tutti se ne servano. Fisici, ingegneri, generali d'artiglieria. La fatica di risolvere un problema dovrebbe bastare a se stessa. Un calcolo perfetto andrebbe subito distrutto. Un calcolo perfetto andrebbe subito distrutto. Le chiedo di identificare questo film, probabilmente è uno dei film più storici della storia del cinema. Se capisco bene, è Ettore Majorana? Esatto, è Ettore Majorana che si scontra con Fermi nel famoso film I ragazzi di Via Panisperna, che è un film che mi ha formato nel corso degli anni. Senta, in questo pezzo di film si parla del concetto della scienza pura, cioè del fatto che la scienza dovrebbe essere fine a se stessa, cioè dovrebbe cercare risultati solo per il piacere di cercare risultati. E allora il concetto di sapere di non sapere, o il concetto di non sapere di sapere, quanto è importante? A me preoccupa sempre la parola sapere, quando viene isolata, quando sta da sola, perché allora punta, rischia di andare così all'infinito, di perdere il controllo di se stessa. Quindi nel libro cerco di metterla in confronto, direi meglio in lotta con la sua ombra, con il suo contrario, con il non sapere. E allora ne vengono tante immagini interessanti, mettendo l'una contro l'altra. Quindi abbiamo il sapere di non sapere, che è la regola fondamentale della ricerca, fin dall'incipit socratico, è la regola d'oro, diciamo così. Ma abbiamo anche il contrario, cioè il non sapere di sapere, che è la nostra conoscenza implicita. Io ricordo da bambino mio nonno contadino, che potava la vite e faceva dei disegni legando i rami della vite, che erano delle composizioni geometriche molto, molto ricche, molto significative. Era una conoscenza implicita, era un non sapere di sapere. Ma abbiamo anche poi il sapere di sapere, che è il sapere sicuro di se stesso, granitico, che porta poi alla tecnocrazia, che porta anche a tanti errori. E poi abbiamo il non sapere di non sapere, che è il buco nero della nostra conoscenza, che ci mette un po' di terrore, no? E viene tradotto poi con il principio di precauzione, che è però una cosa seria, insomma, che andrebbe preso anch'esso con cautela, perché spesso viene utilizzato come uno stop alla ricerca, mentre invece dovrebbe essere appunto una precauzione temporanea, ma accompagnata da più ricerca, per saperne di più e per portare alla luce quello che è un nostro, appunto, buio nella conoscenza. Senta, di tutte le definizioni che ha dato, io ne prendo una, il non sapere di non sapere, e la leggo al razzismo, e le spiego perché. Perché il razzismo fondamentalmente è qualcosa che ci viene dal profondo, cioè la paura del diverso, la paura del nero, la paura della persona che non conosco. Ma noi sappiamo benissimo che le razze non esistono, non è mai stato dimostrato che il DNA dell'uomo è talmente simile fra razza e razza che queste razze famigerate non esistono. E allora quanto è legato il razzismo alla non conoscenza scientifica, cioè al non conoscere che le razze in fondo geneticamente non esistono? Sì, qui ne stiamo parlando con tranquillità, ma se facciamo un sondaggio d'opinione, io credo che la maggioranza penserebbe il contrario, insomma. Ecco, quindi questo ci richiama all'esigenza, insomma, della diffusione della cultura scientifica, ma una diffusione così non dottrinaria, insomma, una diffusione critica, insomma, cominciare dalla scuola. Nella scuola è insegnata molto male la scienza, la matematica, insomma, ecco. E, però questo è urgente, perché nel mondo moderno, abbiamo detto prima, ci sono grandi rivoluzioni scientifiche, c'è questo scarto tra la potenza scientifica e la nostra capacità di regolarla prima di tutto culturalmente, e questo scarto crea anche un grande spaesamento, per cui abbiamo anche un ritorno di superstizioni, di incredulità. Mi viene in mente un bellissimo libro di Marco D'Eramo, l'editorialista del Manifesto, che è intitolato Lo sciamano e l'elicottero, no? Torna spesso in questa postmodernità questa contemporaneità di innovazione, di scienza, ma allo stesso tempo di arretratezza, di visione molto così tradizionalista dei problemi. E questo lo superiamo soltanto con una diffusione della critica della conoscenza. Senta, le chiedo un terzo parere in pillole. Nel libro si parla del fatto che prima della guerra la scienza è fondamentalmente una scienza europea, cioè una scienza che si sviluppa nella vecchia Europa. Nel dopoguerra invece la scienza e la tecnologia si sviluppa fondamentalmente nell'America, quindi negli Stati americani. E poi ora invece la scienza si sta sviluppando in Asia. La domanda è: quanto la scienza potrà cambiare approcciandosi con un territorio diverso che la scienza, considerata come scienza, come entità vivente, non si è mai trovata? Sì, ti ringrazio di questa domanda. Ci tengo molto a questo punto, perché a me colpisce l'inconsapevolezza che c'è sulla questione. Da pochi anni, nel 2005-2006, l'investimento in ricerca e il rapporto al PIL in Europa è andato al di sotto della media mondiale. Noi siamo in Europa a 1,8, la media mondiale è salita intorno a 1,9, va verso i 2. E questo, non abbiamo la serie storica degli investimenti di ricerca, ma insomma tutto lascia presumere che fin dall'inizio della rivoluzione scientifica, cioè nel 600, l'Europa sia stata comunque il luogo dello sviluppo scientifico e tecnologico, e quindi il luogo anche di massimo investimento. Quindi significa che per la prima volta dopo secoli l'Europa perde il primato in questa dimensione fondamentale della conoscenza, ed è come una migrazione del sapere scientifico dall'Europa attraverso l'Atlantico, come dicevi tu prima, negli Stati Uniti, e ora ancora più in là nel Pacifico, nell'Indo-Pacifico. Oggi il più alto investimento e ricerca si svolge tra l'India, la Cina e gli altri paesi asiatici. Che cosa cambia? Come sarà la scienza asiatica? Ecco, che cosa significa che la Cina diventa il, altro che magliette nei nostri mercatini, diventa il principale investitore in scienza e tecnologia? Che significa in un paese non democratico come la Cina questo primato della scienza? Ma che significa, ad esempio, abbiamo detto prima, dei rapporti con la religione? La scienza ha avuto un grande contrasto con la religione, si è liberata anche dal controllo religioso, ma in questa lotta è stata anche contaminata, no? Ci sono anche molti, insomma, gli storici hanno ricostruito molte influenze reciproche. La scienza cinese è invece una scienza che nasce senza questa lunga lotta con la religione, insomma, ecco. Questo procura dei vantaggi, procura forse anche dei caratteri nuovi. Che ti posso dire? Facciamo un esempio concreto: probabilmente tra qualche decennio l'anziano europeo andrà a curarsi l'Alzheimer in Cina, perché certe ricerche biologiche in Europa sono state bandite da un ritorno del controllo chiesastico. Noi andiamo a ascoltarci l'ultimo pezzo musicale, che si intitola Voodoo Dreams. Questi sono sempre gli Antares e qui siamo a Caccia al Fotone. Thank you. Ebbene, siamo in conclusione della prima puntata di Caccia al Fotone, almeno della prima puntata stagionale del quarto anno di Caccia al Fotone, e al 3380-9494 ci arriva un sms che ci chiede qual è la situazione italiana, il suo parere sulla situazione italiana, dottor Tocci. Il principale problema è l'invecchiamento dei ricercatori. Da circa 20 anni si sono messi i bastoni fra le ruote ai giovani ricercatori, è stato precarizzato il loro rapporto di lavoro, si è resa difficile l'accesso alla ricerca pubblica. E questo è il nostro principale problema, perché è un'ipoteca sul futuro. Io seguo questo settore, conosco tanti giovani ricercatori che sono la nostra ricchezza, e vedo questi giovani sempre più disperati, costretti ad andarsene, ad abbandonare questo paese. Dobbiamo invertire assolutamente la tendenza. E di questi giorni, io poi alla fine non sono uno scrittore, sono un politico, sono un parlamentare, quindi lasciatemi alla fine mettere da parte il mio libro e rivolgere un appello. Insomma, il governo di centrosinistra aveva almeno fatto una cosa, aveva stabilizzato i giovani ricercatori che sono nei nostri enti di ricerca. In questi giorni però il governo Berlusconi ha presentato un emendamento per cancellare questa norma di stabilizzazione, per chiudere di nuovo le porte in faccia ai giovani ricercatori. Abbiamo organizzato martedì alla Camera un incontro con i giovani precari, perché ci stiamo battendo contro questa misura del governo. Riaprire le porte ai giovani ricercatori italiani significa scommettere sul futuro del paese. Walter, grazie per essere stato in nostra compagnia. Noi dovevamo avere in diretta Claudio Argentini, ma purtroppo non è raggiungibile tramite telefono, quindi sicuramente lo intervisteremo, e l'intervista sarà pubblicata sul sito www.cacciafotone.it. Io intanto vi ringrazio per l'ascolto, grazie per essere stato all'ascolto della prima puntata della quarta stagione di Caccia Fotone, e come al solito ci lasciamo con buona scienza a tutti. One small step for man, one giant leap for mankind.